Oh, anno nuovo, vita nuova, a parte detti popolari. Bentornati ad Aperitivo Ludico, io sono Marco Andretto e se pensavate che avessi smesso di farlo, vi sbagliavate. Ta-da! Sorpresona! No, in realtà mi sono preso un po' di tempo di pausa, anche perché questa la faccio per passione e quindi durante le feste ho voluto godermi le feste. Sapete com'è? Scansa fatiche che non sono altro. Allora, ritorniamo bomba su Aperitivo Ludico, su dei giochi di cui mi piace parlare. Vi avevo preannunciato l'altra volta in una maniera un po' particolare che avremmo parlato questa volta di vampiri. Vampiri in una chiacchierata in un po' tutte le sue incarnazioni, quindi The Masquerade, Requiem, il live lo lasciamo un attimo da parte, il Mind Ice Theater, e il V20. L'ultima incarnazione di vampiri, Dark Ages, ok, ci sono tutte le cose, non andremo. Perché parlare di vampiri? Perché è un gioco che ha toccato fondamentalmente il mercato dei giochi di ruolo, dei giochi italiani, e che parla di un argomento figo. Sì, allora vi spiego. Io sono un po' vecchio, ok? Per cui quando ai tempi frequentavo la scuola e ho visto l'uscita su quello che era internet, cioè non era internet, però il passaparola si sentiva di questo gioco pubblicato ai tempi. Allora, Vampiri è del 1991, 92 la seconda edizione mi sembra, pubblicato in Italia, tradotto in Italia dalla DAS, i giochi dei grandi. Il negozio di giochi che c'è a Verona, tra l'altro, ai tempi si traduceva in collaborazione giochi. In fondo il mercato dei giochi di ruolo non è cambiato tantissimo in questi anni. Oddio, quanti anni sono passati? 91, 2001, 2011, più di 20 anni, ok? Quindi più di 20 anni fa nasceva Vampire The Masquerade. Da un colpo di genio, tra virgolette, da un'idea di Mark Reinhagen. E questo gioco si basava su un'idea fighissima. Come dicevo, io quando l'ho visto uscire questo gioco, ho detto, che schifo, cioè, che cavolo fai? Dracula, Dracula ce n'è uno, fai Dracula, appunto, e vabbè, bello Dracula, ok, sempre lo stesso vampiro, ok. E allora, e quindi che cavolo mi fa? Un party di sette vampiri, di quattro vampiri. Sette vampiri sono un po' tanti per un gioco di ruolo. Un party di quattro vampiri, sul serio. Ok, quattro Dracula. Ah, ti succhio il sangue, io lo succhio a te, io succhio a te. E tutti a succhiarci come bravi amichetti che succhiano. Ok, forse questa può essere, era fraintendibile. Comunque, quando ho letto, sono rimasto un po' così. Poi, anni dopo, mi è capitato di provarlo perché degli amici mi hanno detto: perché non giochiamo a vampiri? E ho detto: perché no? Proviamolo. Non l'ho mai provato, lo descrivevano come fighissimo e l'ho provato. E ho provato questa versione. Ok, ho questa. Gli altri manuali li ho lasciati dall'altra parte. Ok, ho solo questa a mostrarvi. Vampiri, i secoli bui, The Dark Ages. Ho una versione particolare perché riporta l'ambientazione di vampiri nel Medioevo. E ho scoperto quanto era figo vampiri. Quanto era figo perché aveva una mitologia dietro, una storia dietro, una cosmologia, diciamo. Comunque, un metaplot, ecco come lo chiamano. Ed ecco cos'è la cosa figa di vampiri, il metaplot. Cioè, una storia dietro che nasce prima, all'alba, perché si narra che nasca con Caino. E va avanti e prosegue fino a una fine. Sì, perché la cosa figa di vampiri, ma di tutto il mondo di tenebra di cui fa parte vampiri, il metaplot ha delle tappe di storia in cui i vari master ambientano le loro avventure, le loro campagne, prendendo spunto e incasellandole, costruendo la propria storia all'interno di questo metaplot generale. La casa produttrice è la White Wolf in generale, in originario, e ha avuto questa idea fighissima. Ha avuto l'idea di prendere l'archetipo dei vampiri, renderlo figo, renderlo, sì, insomma, costruirci questo mondo attorno, partendo dalla mitologia di Caino, e gli antediluviani, le varie generazioni, attraverso i secoli. costruendo un mondo come il nostro, ma dipinto di toni scuri, di toni dark, per cui i grandi avvenimenti che sono avvenuti nella storia sono stati ridipinti con toni fantasy dark, gotici. Cosa vuol dire? Per esempio, un grande avvenimento storico magari è stato loro lo ridipingono come influenzato da grandi vampiri potenti. Sì, perché questi vampiri, i più antichi, fanno macchinazioni a livello mondiale, a livello di nazione, a livello di tanta gente. Perché? Perché nel mondo esistono gli esseri umani normali e sono pedine e nutrimento nelle mani di questi vampiri. Ma ogni clan, sì, perché nella cosa classica ci sono 13 clan, ognuno caratterizzato in maniera diversa, chi è più vicino alla parte bestiale del vampiro, se vi ricorderete anche il Dracula classico ha questa parte bestiale, chi è più vicino, scusate, oppala là, ho buttato via un fantasma, ma non ci fate caso, fa parte anche lui del mondo di tenebra, chi è più vicino magari alla parte romantica del vampiro, chi è più vicino alla parte demoniaca del vampiro. Ogni clan ha le sue caratteristiche e le sue particolarità, per cui ogni giocatore riesce a trovare un clan che gli si avvicina di più e a cui si sente più affine come caratteristiche dei propri personaggi o magari come temi che vuole giocare. Sì, i temi di vampiri. Cosa fighissima, vampiri, ma anche le altre linee di Mondo di Tenebra, che magari parleremo in un'altra occasione, di cui parleremo in un'altra occasione, portano in gioco, per esempio, vampiri, il tema del gotico, il tema del dramma interiore tra l'essere bestia e il doversi nutrire, sfamarsi degli esseri umani, e bramare, amare l'umanità in sé perché essere meraviglioso e caduce, cioè che tende a finire la loro mortalità. L'immortalità dei vampiri molte volte viene vista come una maledizione, come una cosa che i vampiri non vogliono più, il perdere le cose a cui amano, lo sgretolarsi, ridursi in polvere delle cose che amano e che loro vorrebbero tenere con sé. O magari, altro tema importante, i vampiri, la brama di potere, le macchinazioni che dicevo prima. Il poter decidere il destino di molti con la propria volontà. Oppure, altro tema fighissimo dei vampiri, il nascondersi nelle pieghe del tempo e in ambiti reconditi e oscuri dello spazio, cioè in luoghi, di artefatti o segreti meravigliosi e terribili. La cosa stessa che nel manuale, le piccole accenni che nel manuale vengono lasciati e non definiti, che fine hanno fatto gli antediluviani? Dormono nel loro sonno, girano per il mondo. Lo stesso Caino, il primo dei vampiri, potentissimo e terribile e maledetto, meraviglioso e maledetto, ripreso dalla figura biblica o comunque romantica di Lucifero, in cui quest'essere sì. Maledetto da Dio, ma bellissimo perché nella figura romantica, perché ha lottato per il suo orgoglio, per la sua libertà ed è caduto. Tutte queste cose sono ciò che rende figo vampiri. Ma ne parliamo più approfonditamente magari nella seconda parte, anche perché siamo verso i 10 minuti. Non vi ho detto, sto registrando questa puntata un po', non dico di fretta, però compresso tra i tempi, ero senza microfono, sono corso a prendere il microfono per voi. Se si sente un po' male, mi dispiace. Se si sente come le altre volte, ok, non ci avete perso niente. Sono andato a correre a prendere il microfono, poi dovrò correre perché ho scoperto che in questi giorni si sta svolgendo Utopia R a Padova, una specie di co-manifestazione in cui giocare di ruolo. E correrò lì oggi pomeriggio per mangiare con loro, chiacchierare e giocare stasera. Non me la voglio perdere. Per cui a botta, bombiamo duro su questi 10 minuti e altri 10 minuti dopo per parlarvi dei vampiri. Quattro chiacchiere. Se avete qualcosa da dire, magari vostre esperienze su vampiri, sono qui che vi aspetto. Ne voglio sapere. A me è piaciuto un casino. Eccoci qua. Per la seconda parte di Aperitivo Ludico, guardavo mentre registravo il file di prima, puntata numero 13, la prima del 2016. Benvenuti nel 2016, già fatto prima. Cose vecchie, Marco. Ok, torniamo a quello che dobbiamo dire. 10 minuti sono pochi e le cose da dire sono molte. Ok, allora, cosa bella di vampiri, dicevo prima, l'ambientazione, il metaplot. Ok, di solito in questa parte, seconda parte, parliamo più approfonditamente di cose tecniche, ok? Ma non per questo voglio che siano noiose. Parliamo del metaplot, quella, la cosa geniale di vampiri, ok? Perché la cosa geniale di vampiri? Se avrete notato in giro, guardando nei videogiochi, guardando nei libri, i libri un po' l'hanno sempre fatto, però i vari media si tende sempre di più, io guardo un po' più a sinistra perché ho l'orario, ok, però sto guardando, sto parlando con voi, si guardano, e in tutti i media si tende sempre di più a fare dello storyteller, ok, diciamo che una delle prime volte che è nato il termine storyteller come cosa coniata e figata è stato come per definire il master di vampiri. Perché? Perché prima i giochi di ruolo, tra virgolette, erano caratterizzati dai combattimenti. Ok, non è vero, però diciamo che il grosso cambiamento è stato con vampiri. Il master di vampiri, colui che muove il mondo, colui che muove i personaggi al di fuori dei personaggi dei giocatori, personaggi giocanti, personaggi principali, è stato definito adesso, da questo momento del 91 in avanti, storyteller, da questo gioco in avanti, storyteller, cioè colui che racconta le storie. Perché? Perché in questo mondo si voleva dare più impatto alla narrazione e all'interpretazione che non ai combattimenti. Infatti, per esempio, un metodo per premiare i giocatori e quindi spingerli ad agire in quella direzione era dare i punti esperienza a seconda di come avevano interpretato i personaggi. Ok, è opinabile che una persona sola, cioè il master, abbia l'onere e l'onore di premiare i giocatori. Perché? Perché può succedere che per un giocatore ha portato le caramelle e quindi inconsciamente il master, che è una persona anche lui, sia più propenso a essere favorevole verso quella persona. Ok, molti mi diranno, no, non è vero, io sono un master fighissimo e non bado a queste cose. Lo so, non siamo tutti master fighissimi, però diciamo che ci sono dei giocatori che hanno accumulato esperienza per cui sono magari migliori di altri proprio per questa esperienza accumulata e possono decidere più onestamente, o comunque sono persone che in fede cercano di essere oggettive e equilibrate nel giudicare gli altri. Però comunque capita di essere di parte o per un motivo o per l'altro. Capita anche nella vita reale, figuriamoci in un gioco che è una cosa per distrazione, per divertimento. Per cui che una persona possa decidere è una cosa che secondo me non ci sta troppo, lo distanzia un po' dal suo essere un gioco tipo il Monopoly, il Risico e altre cose che sì, è vero, non sono narrativi, però almeno nella loro parte di gioco sono danno pari opportunità a tutti quanti di essere premiati, di vincere in alcuni casi o comunque di raggiungere lo scopo del gioco. E in questi giochi narrativi, tra virgolette, cioè tipo il mondo di Tenebra, che vogliono essere più narrativi che di combattimento, giocattolosi, si perde questa imparzialità dando a un per giocatore, a una persona, il potere di decidere lui a chi dare. Lo capite anche voi, insomma. E se vi guardate dentro in coscienza sapete che questa cosa è vero, potete anche non aver sbagliato mai, ma sapete che può capitare, ok? Per cui se ci fosse una meccanica che dà un'altra cosa, che dà i punti in un'altra maniera, forse sarebbe più onesto ed equilibrato. Comunque diciamo che era un primo passo verso premiare l'interpretazione, a differenza di per esempio D&D, che premiava uccidendo mostri o trovando tesori. Cioè tu uccidi i mostri e prendi un tot di punti esperienza, per cui il giocatore tenderà a uccidere i mostri. Ok? Se ti do la caramella perché uccidi i mostri, tu ucciderai i mostri. Ok? O tenderai a uccidere i mostri. Magari non è così scontato perché ognuno ha le proprie propri obiettivi, le proprie agenda, eccetera, eccetera. Però diciamo che la tendenza è quella. Si agito molto le mani. Tenderò a legarle. Una volta ho provato un gioco che si chiamava La figlia, The Daughter of... non mi ricordo chi. in cui c'era anche una meccanica per giocare in cui si dovevano tenere le mani. È stato orribile. Ok, torniamo a Bomba su Vampire. 35 minuti sono passati solo per spiegare questa cosa di punto di esperienza. Interessante, ma andata. Vi dicevo che diventano narrativi, ok? Ti premono più l'interpretazione del proprio personaggio. A volte sfugge anche un po' di mano, nel senso che il giocatore mette al primo posto il proprio personaggio, la propria interpretazione, la propria soddisfazione nell'interpretare, piuttosto che il gioco di gruppo. Bisognerebbe sempre tenere a mente in tutti i giochi di gruppo che si sta giocando di gruppo, per cui l'interpretazione del proprio personaggio viene comunque in secondo piano, altrimenti sarebbero giochi competitivi, oppure il gioco direbbe all'inizio: questo non è un gioco collaborativo in cui si costruisce una storia, ma è un gioco in cui ognuno racconta la propria favola. Ok? Bene. Di cosa è fighissimo Vampiri? Fighissimo è Vampiri perché ha questa mitologia. Caino, il primo vampiro che uccidendo Abele fu maledetto da Dio. Poi Caino ebbe dei figli, non la ricordo esattamente, anche perché la White Wolf ha avuto una genialata. La descrive, dà alcuni spunti, ma poi lascia libera l'interpretazione, lascia dei dubbi, molti dubbi. Scusatemi, mi sono perso. Tornavo a un argomento, torno a un coso principale che stavo dicendo prima. In cosa sta cambiando in questi ultimi tempi? Nei videogiochi si sta inserendo sempre più una componente di storia. Si sta dando un motivo, una storia da seguire, un background ai personaggi che non sia semplicemente inutile, come succedeva tempo fa. Perché Mario va a prendere la principessa? Perché la deve salvare. Ok, ma non si sa niente di Mario, non si sa niente della principessa, eccetera. Certo, è un gioco che va bene per rilassarsi, per sfogare, che te ne frega, spegni la mente e vai. Però negli ultimi anni sempre più giocatori sono interessati ad avere un motivo, ad essere premiati con una parte di storia per le loro azioni, per il loro gioco. Ecco, questa cosa i giochi di ruolo già lo facevano e lo faceva, tra virgolette, Vampiri, anche se le meccaniche non aiutavano in questo, perché purtroppo il dado si tirava comunque per saltare da un palazzo all'altro, per uccidere un altro vampiro, eccetera, eccetera. La parte figa dei vampiri era la parte interpretativa, cioè che veniva premiato sia per premessa, cioè il gioco te lo diceva prima, che per l'esperienza, il fatto di interpretare emozioni e background del proprio personaggio. A volte si esagerava, come dicevo prima, nel dare troppa enfasi, metterebbe al primo posto la propria interpretazione rispetto al giocare di gruppo. E a volte si sbagliava anche, per esempio, nell'esagerare in questo. Mi è capitato di vedere background di personaggi sprecati. Cosa vuol dire sprecati? Intere pagine della storia del proprio personaggio che non venivano messe in gioco. Cioè, magari il master faceva scrivere 2 pagine di background del proprio personaggio, bellissimo, prendendo spunto da questo metaplot, quindi dai vari clan, dal proprio dissidio interiore, da com'era nato. Il proprio vampiro, sì, perché anche l'abbraccio, questa cosa così romantica del diventare vampiro o così bestiale, perché il vampiro ha molteplici facce, ognuna che è possibile giocare, interpretare, questo l'abbraccio, queste cose venivano scritte su delle pagine che poi non entravano in gioco. Perché? Perché le meccaniche. Sì, il manuale ti consigliava di metterle in gioco, ma se non sei un master bravo, che non sai in che modo inserirle queste cose, come fai? Il manuale non ti aiuta in questo, ti consiglia, sì, ti spinge, sì, ti dice che dovresti farlo, sì, ma come? Ok. Però quando diventavi un master bravo e queste cose venivano inserite e i personaggi si trovavano sulla stessa pagina, cioè volendo giocare le stesse cose, venivano fuori delle storie bellissime. Perché? Perché la premessa e il background, diciamo, il color, l'ambientazione di Vampiri è una cosa assolutamente straordinaria. Ultima parte di aperitivo ludico. In realtà l'ho già registrata, ma non l'avete vista perché ho premuto quel tasto maledetto su cui c'è scritto cancel ed è andata perduta. Per sempre, maledetta. Quindi Comunque dicevo un sacco di cose interessanti, fighissime, ma che voi non vedrete mai. In realtà, in questo spazio di solito ci salutiamo. Mi sono accorto che non ho fatto legami con i film e con i libri. Vi consiglio sicuramente Dracula di Bram Stoker, sia il film che il libro. Vi consiglio Intervista col vampiro, sicuramente. Oh mio Dio, non vi consiglio Twilight perché a me non è piaciuto. Però magari se vi piace anche questo può essere uno spunto. Non prende molto. Ah, i libri di Anne Rice, sicuramente da cui Intervista col vampiro è preso, tutti i libri di Anne Rice. Ok, dopo un po' sono un po' sempre quello. Però a me quelli che ho letto sono piaciuti. Per cui Queenie, Regina dei Dannati, non il film, mi raccomando, non il film, il libro. Intervista col vampiro, eccetera, eccetera. Quelli sicuramente ve li consiglio. Vi consiglio di andare, se volete, se vi piacciono i libri, perché no, recuperare tutto il materiale che è stato scritto su Vampire The Masquerade. Perché alla fine c'è sicuramente qualcuno che ha un fan, o qualcuno, un amateur, che ha scritto quello che possono somigliare tanto a dei libri, perché le cronache di questi giochi, se scritte bene, risultano molto leggibili, molto fruibili e affascinanti. Parlando del background di temi, vi consiglio anche di andare a recuperare, se volete, tutti no, le ambientazioni, i manuali collaterali di questo gioco. Perché? Perché hanno un sacco di flavor, un sacco di testo, che è come leggere un romanzo, leggere libri, leggere cose. È la cosa figa di questo gioco, per cui è possibile sfruttarlo anche come materiale da leggere. Bene, direi che con questo è tutto. Io tra poco scappo a Utopia R. Stasera non so cosa giocherò perché purtroppo mi sono iscritto all'ultimo e mi hanno detto ti dovrai un po' adeguare e ho detto non c'è problema. Quando gioco di ruolo mi piace quasi qualsiasi cosa, sono un po' di bocca buona, ok? Vi consiglio comunque di dare un'occhiata a Vampiri, ok? Mi sono accorto che non ho parlato di Vampiri The Requiem, che è la terza edizione, seconda versione di Vampiri, che è stata un po' schifata dai fan della vecchia ora, della nuova, della vecchia ora, vabbè, della vecchia guardia. Perché hanno detto ah, schifo vampiri, The Requiem non è più Vampire The Masquerade. Sì, la White Wolf ha deciso di sistemare, tra virgolette, cambiare un po' le cose, e anche perché altrimenti che scopo avrebbe avuto fare un nuovo manuale? Sì, magari sistemare alcune cose, perché in questo gioco, non mi ricordo se l'ho detto prima, i dadi si tirano per saltare da un palazzo all'altro per combattere. E la parte figa, l'interpretazione, è lasciata molto in mano ai giocatori, al master. Sì, è vero, mi direte voi, con un master figo queste cose questi problemi non ci sono. Ma se uno non è un master figo, anche perché master con esperienza, anche perché l'esperienza si acquisisce negli anni e prima si sbaglia tanto, si fanno combattimenti che non servono assolutamente niente all'interpretazione, alla storia, e questo gioco invece dovrebbe essere, per detta stessa del manuale, basato su dell'altro. È vero che si impara, ma i master bravi hanno bisogno di tempo, di esperienza e non li vendono sicuramente col manuale. Io quando compro un manuale vorrei che mai il manuale mi aiutasse. Ok, altrimenti potrei fare un sito in cui si comprano master. Affittasi i master. No, per carità, resta comunque una passione. Non pagate i master per farvi giocare. No, eh? Ok, ci rivediamo le prossime settimane, torniamo in piena forma, dovrei cominciare a postare anche quella cosa ormai diventata fantomatica che è GDR Unplugged, perché abbiamo cominciato una nuova campagna, le precedenti purtroppo sono morte per problemi tecnici e quindi non ho potuto postarle, e ora cominceremo a postarle, se c'è una certa continuità. Seguite le nostre avventure su GDR Unplugged, seguitemi su Aperitivo Ludico, io adesso scappo e cosa volete che vi dica? Buon gioco a tutti quanti!